Innanzitutto gli organizzatori del seminario, quindi tutti di fatto, no? Chi partecipa, perché mi sembra una iniziativa importante e anche di prospettiva, cioè che guarda lontano, ci offre di fatto credo la possibilità di sviluppare riflessioni importanti proprio per capire la contemporaneità e per certi versi però per affrontare un tema che è quasi sempre ai margini, quindi in un certo senso toccare le questioni della salute mentale o se vogliamo le questioni legate al rapporto tra società e follia è un modo credo interessante di riflettere all'università, quindi in modo autogestito proprio su una questione che secondo me dai margini dà una serie di indicazioni preziose per capire quello che sta accadendo. Naturalmente ho pensato che questo intervento potesse dare un contributo diciamo anche alla seconda parte dei lavori, quindi sono assolutamente disponibile a fare degli incontri diciamo più come possiamo dire equilibrati, circolari, orizzontali, come volete, nel senso se è possibile discutere di singoli aspetti, no, che riguardano queste tematiche a partire proprio da uno scambio di esperienze. E naturalmente faccio questo non, come dire, così, per fare un discorso, come dire, abbastanza anche, no, forse che si è soliti fare, ma perché di fatto quello di cui mi occupo è proprio questo, cioè la possibilità di entrare dentro le esperienze concrete che trasformano delle situazioni e che quasi mai, diciamo, sono direttamente identificabile con quello che chiameremmo sapere medico, biomedico, sapere psichiatrico e neanche probabilmente delle nuove forme di organizzazione e gestione del sociale, no? Quello che chiamano insomma, no? Il nuovo welfare, il welfare leggero, oggi si parla anche di psichiatria leggera. Tutto questo offre un linguaggio che è quasi una tecnologia, no? Della gestione delle relazioni che da quello che almeno mi è capitato di vedere, molto difficilmente traduce poi la prassi quotidiana nel campo della salute mentale, ma credo in molti altri contesti e situazioni, no? In cui diversi soggetti agiscono per cambiare. Vedete che la questione del cambiamento di fatto è cruciale. Quindi massima disponibilità. Allo stato delle cose io proverò a fare un intervento così, parlare, poi magari vediamo, no, se è possibile appunto dialogare subito, perché con questo tipo di numeri a disposizione forse la cosa migliore da fare ora è questa. Naturalmente quando dico vorrei dare un contributo, penso che l'obiettivo potrebbe essere quello di introdurre alcuni elementi di discussione, proporre alcune direzioni di approfondimento e poi a partire magari da un quadro anche della complessità di alcuni processi, fenomeni, vedere se è possibile dare un contributo a quelli che potrebbero essere gli incontri, i confronti aperti con gli operatori che immagino, no, verranno. Per me, per esempio, essere tramite tra il seminario e per esempio degli operatori nel campo della salute mentale e gruppi di utenti, per esempio, che si organizzano, questo essere tramite è uno dei contributi, credo, principali che posso dare a questa discussione. Quindi vorrei che fosse chiaro che quello che facciamo come connessioni, no, come costruzioni di rete concrete a partire dalle pratiche, probabilmente è molto più trasformativo che, diciamo, un incontro frontale su, no, le grandi questioni, ovviamente, che servono a inquadrare un problema complesso, che richiede competenze, no, una riflessione specifica, e anche, diciamo, con la consapevolezza che uno può dare un taglio particolare. Di fatto io mi occupo di, diciamo, salute mentale dal versante antropologico, lavoro prevalentemente, anzi quasi esclusivamente, con un approccio di tipo etnografico, cioè cerco di entrare dentro a quelle che sono poi, trovare un modo adeguato, se vogliamo, per descrivere la complessità, ma anche poi l'andamento dell'agire quotidiano, le pratiche quotidiane, se vogliamo, che vedono protagonisti necessariamente diversi soggetti. Cioè non possiamo parlare solo dei pazienti, così come non sarebbe opportuno parlare solo, non so, degli psichiatri o di... Stiamo parlando, per esempio, di nuove forme di cittadinanza in cui sono coinvolti diversi soggetti. E per esempio una cosa che volevo dire come contributo, quello che io provo a dare anche nella rete in cui mi muovo, è quello che faccio anche un contributo come cittadino per certi versi, cioè io partecipo a riunioni semplicemente perché sono interessato a questo argomento, no? Non solo perché intendo studiarlo, probabilmente ho dedicato una parte dello studio a questo argomento, adesso magari mi interessa fare anche altre cose, non sempre, come dire, fare etnografia. Anche se le due cose sono molto complicate, diciamo, da distinguere, no? C'è una sorta di intreccio, no? Tra la vita, no? E quello che poi è la ricerca. Detto questo, quindi, grande disponibilità degli incontri, infatti adesso parlavo con Giacomo, forse se si riuscissero a trovare degli argomenti più focalizzati e fare dei gruppi di lavoro, no? Questo secondo me forse faciliterebbe, poi naturalmente con una restituzione in una riunione tipo questa in plenaria, però riuscire in qualche modo a costruire delle situazioni dialogiche, effettivamente dialogiche. Naturalmente tutto si può sperimentare. Due parole sul titolo. E il titolo riprende una frase di Franco Basaglia che sta nelle conferenze brasiliane. E nel programma, forse per un problema di mail, con Giacomo ne avevamo parlato, sono saltate poi le virgolette, quindi sembra più una ripetizione. Di fatto la prima parte, quella prima dei due punti, riflettere sulle cose che in pratica trasformiamo, è effettivamente la fine, o meglio, una delle frasi che stanno in questa risposta che dà Franco Basaglia a diciamo una domanda specifica che riguarda, quando è in Brasile, quindi nel 1980, a poco tempo dalla morte, ma anche a poco tempo, diciamo, dall'approvazione e anche, se vogliamo, dal riconoscimento, no, della legge 180 del 13 maggio 1978, quando appunto Basaglia è chiamato a rispondere a domande molto interessanti, cioè si trova lì di fronte per esempio a una situazione asilare drammatica, cioè gli ospedali psichiatrici in cui entra Basaglia in Brasile sono veramente quello che forse si stava provando a superare, no? In Italia, ma forse anche molto peggio, e le domande per esempio riguardano però come investire attraverso il movimento della diciamo, riforma della psichiatria, In alcuni casi poi questo è complicato, forse un gruppo si potrebbe occuparsi proprio delle parole, perché Battaglia forse non avrebbe utilizzato il termine antipsichiatria, però per esempio a me capita adesso di trovare sempre più spesso dentro a dei gruppi organizzati il termine antipsichiatria. Vedere come questo si utilizza oggi e in quali dimensioni, diciamo, direzione del confronto politico è sempre interessante. Questo sempre per aprire parentesi. Comunque, come il movimento, diciamo, di trasformazione della psichiatria in Italia, che produce psichiatria territoriale ma che prima di tutto abbatte l'ospedale psichiatrico, scommette su una cosa che effettivamente è ancora riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel caso d'Italia, cioè il fatto che si può fare salute mentale azzerando l'ipotesi ospedale psichiatrico. Questo capite che è una scommessa effettivamente rivoluzionaria. Come questo possa contaminare, investire altri movimenti anti o di trasformazione istituzionale, perché di fatto un tema centrale poi nella pratica, come ben si capisce, è che tutte le volte che noi ripetiamo le stesse pratiche siamo dentro un processo, se vogliamo, di decostruzione, deistituzionalizzazione, ma anche di costruzione delle istituzioni. Altre istituzioni magari più democratiche, un altro modo di confrontarsi con, diciamo, lo scambio sociale, ma l'idea è che siamo dentro una dialettica, no? Quindi l'idea che il movimento sia, per così dire, di trasformazione implica anche un'analisi molto attenta e rigorosa di quello che è essere, potremmo dire, parte di un'istituzione. E anche come naturalmente le domande erano di base, cioè forse la domanda per cui ci potremmo porre qui, perché occuparsi di questi temi, no? Perché scegliere un argomento? Perché fare, nel mio caso, ricerca sulla salute mentale? Come dicevo prima, secondo me tocchiamo alcuni temi centrali, no, della contemporaneità. Nel suo caso era come cambiare la società radicalmente, no? Qui si parlava addirittura di cambiare società e modi di produzione con quel tipo di domanda che veniva posta a Battaglia. E Battaglia risponde così. Certo, l'organizzazione sociale, il potere, hanno sempre la possibilità di recuperare le trasformazioni. Il termine recuperare, come sentirete, è giocato, ha una sua ambivalenza qui dentro. Da un lato sembra che potrebbe disinnescarlo, quindi per certi versi è come se le trasformazioni da un lato potrebbero essere, per così dire, recuperate intese come bloccate, e dall'altro vedete che in un certo senso c'è anche una idea, come vedremo, cioè che recuperare significa anche scambiare, cioè rendere disponibile. Quindi vi invito a riflettere su questo fatto che la parola in una comunicazione orale potrebbe avere questo doppio livello di significato. Allora dice, certo, l'organizzazione sociale e il potere hanno sempre la possibilità di recuperare le trasformazioni, ma il potere non è infinito, è molto difficile recuperare la pratica, mentre è molto facile recuperare l'ideologia. Allora, e questa è la frase che io riprendo appunto per il titolo, dobbiamo stare attenti a ciò che consideriamo rivoluzionario, che non è creare ideologie, ma riflettere sulle cose che in pratica trasformiamo. Riflettere sulle cose che in pratica trasformiamo è una di quelle frasi che probabilmente Battaglia amava ripetere nel momento in cui giorno per giorno provava a cambiare situazioni apparentemente, diciamo, contingenti, molto legate al quotidiano, no? Trovare una sistemazione per un gruppo di persone che non hanno la casa, oppure cercare di cambiare in modo, di rinegoziare il contratto, per così dire, terapeutico, oppure di pensare, per esempio, di fare delle azioni all'esterno, quando ancora doveva abbattere l'ospedale psichiatrico, per far, in un certo senso, cambiare gli stessi rapporti, no, tra la città e questo spazio istituzionale. Tutto questo quindi ha a che fare con una pratica che va avanti, potremmo dire che precede, è qualcosa che ancora non si può, per certi versi, interamente rendere come modello, e forse non lo sarà mai, c'è sempre un'eccedenza, e il fatto che noi ogni volta che facciamo però questo lavoro quotidiano siamo in grado di rifletterci sopra. Questo dice, per certi versi, è rivoluzionario, è effettivamente rivoluzionario, ma è molto, potremmo dire, difficile poi da raccontare e anche da trasferire. La cosa che continuamente dice, ma adesso ve lo leggo, in realtà dice: io sono un testimone della situazione italiana, non penso di venire qui a esportare in Brasile qualcosa che è avvenuto, no? Quello che possiamo fare è in un certo senso lavorare su questo, riflettere sulle cose che in pratica trasformiamo. Allora dice, questo è molto difficile da recuperare. Nel mio caso, per esempio, io non vado in giro per il mondo perché sono una star della liberazione, io sono un testimone, uno che porta un messaggio. Anche se i giornali in Italia parlano di me, magari di ciò che abbiamo fatto come di un paradiso terrestre, la nostra azione pratica non è stata recuperata. Cioè c'è un modo di raccontarlo, anche ideologico se vogliamo, e c'è un modo invece di recuperare, in questo senso scambiare, rendere disponibile l'azione intesa appunto come trasformazione nella pratica. Vede, e qui risponde appunto al suo interlocutore, la cosa importante è che abbiamo dimostrato che l'impossibile diventa possibile. Questa è un'altra di quelle cose che ripete Basaglia, cioè questa cosa di dire la psichiatria senza ospedale era una cosa che effettivamente sembrava impossibile, cioè negava la natura stessa della psichiatria, no? Qui bisogna sempre riflettere, ti immagino che aggancio dei temi che saranno già stati affrontati negli incontri precedenti, per esempio quelli su Foucault, no? Cioè che molto spesso il sapere psichiatrico è stato prodotto come sostanzialmente riaggiustamento di una pratica asilare. Quindi quello che molto spesso diventa sapere tecnico della psichiatria è stato prima di tutto uno degli esiti di uno dei mandati della psichiatria, che era quello del controllo sociale. L'altro mandato, il controllo, diciamo, potremmo dire la trasformazione intesa come processo terapeutico, è un altro elemento, ma che di nuovo interagisce costantemente con questa dimensione. Quindi potremmo dire che dimostrare che l'impossibile diventa possibile è proprio questo atto, molto potremmo dire che ha a che fare con l'agire quotidiano, che significa, potremmo dire, non tanto, ecco, forse buttare giù l'ospedale psichiatrico come se fosse un atto una volta per tutte, ma potremmo dire smontarlo mattone per mattone, dove i mattoni ovviamente non sono solo, no, i spazi fisici, ma sono proprio quegli elementi che potremmo dire ricostituiscono delle relazioni bloccate nei contesti appunto del campo della salute mentale. 10, 15, 20 anni fa era impensabile che un manicomio potesse essere distrutto, magari i manicomi torneranno a essere chiusi e più chiusi di prima, io non lo so, qui è profetico probabilmente, ma ogni modo noi abbiamo dimostrato che si può assistere la persona folle in un altro modo, e la testimonianza è fondamentale. Io non credo che il fatto che un'azione riesca a generalizzarsi voglia dire che si è vinto. Il punto importante è un altro, è che ora si sa che cosa si può fare. È quello che ho già detto altre mille volte. Noi nella nostra debolezza, in questa minoranza che noi siamo, non possiamo vincere perché è il potere che vince sempre. Qui forse c'è un'idea molto monolitica del potere, cioè una però noi, aggiunge, e questa è l'apertura, noi possiamo al massimo convincere. Nel momento in cui convinciamo, noi vinciamo, cioè determiniamo una situazione difficile da recuperare. Quindi una sorta di irreversibilità, no? Di questo processo che è quotidiano, no? Ha a che fare con un'azione, diciamo, anche paziente, non spettacolare. Anche se poi ci sono le situazioni molto coreografiche. Io vi ho portato, ma questo forse si può fare sempre nei seminari più ristretti, ma un libro come Marco Cavallo, non so se l'avete mai incrociato, è uno dei libri più ibridi che sono stati prodotti nel processo di deistituzionalizzazione, no? È la storia del laboratorio a Trieste che poi ha prodotto questo cavallo azzurro che è stato portato fuori. In realtà è un pezzo di etnografia, cioè è una di quelle situazioni in cui si capisce che descrivendo le pratiche quotidiane ci sono degli elementi effettivamente straordinari, no? Di cambiamento, che molto spesso poi nella riorganizzazione, nella risistemazione, se vogliamo, no? Delle pratiche in una sorta di, no, linguaggio più comprensibile, molto spesso si perdono. Quindi io direi che, sempre parafrasando Basaglia, che in fondo questo sapere della pratica è felicemente irrecuperabile. Cioè, per certi versi potrei dire che mi interessa anche far vedere che ci sono degli elementi irriducibili, no? Che in un certo senso ci debbono interrogare, ci dovrebbero aiutare a entrare dentro situazioni che non sempre si possono, come dire, organizzare in una sorta di modello. Perché dicevo che c'è una sorta di irriducibilità? Perché di questo che poi oggi volevo un po' parlare, è che cioè si tratta di questo sapere che sta nelle pratiche quotidiane, è trasformativo ma è difficile da raccontare e trasmettere. Cioè con la parola molto spesso è difficile da, per così dire, da condividere. È in questo senso che è, potremmo dire, una specie di paradosso. Da un lato siamo in grado di produrre nella pratica queste trasformazioni, possiamo rifletterci sopra, non sempre siamo in grado di restituirle con narrazioni efficaci. Questo è uno anche dei grossi problemi che interessano a me come diciamo tema della ricerca, no? Cioè, perché un'esperienza così importante degli anni 60 e 70, che in Umbria è stata per esempio estremamente importante, oggi è così difficile da trasmettere a altri operatori, no? Di altre generazioni? O ancora più importante, perché è così difficile da comunicare all'esterno? Perché oggi, diciamo, il campo, le reti della salute mentale sembrano avere difficoltà poi a comunicare, no? Queste azioni quotidiane con la città, per esempio, no? con le situazioni in cui c'è un confronto, no? Negli spazi pubblici. Lungo questa linea, quindi, vorrei affrontare due questioni che mi sembrano abbiano certa rilevanza nel campo della salute mentale oggi in Italia. In primo luogo vorrei riflettere su quello che è un sapere che è incastrato dentro alle pratiche e che ha a che fare, potremmo dire, con le nostre capacità di agire. È per questo che possiamo usare un termine anche magari cioè, che ricorre molto spesso, cioè ha a che fare con un sapere incorporato, è un sapere incorporato, no? Lo riusciamo a esprimere nel momento in cui agiamo, ma in larga parte non passa per un linguaggio, per così dire, no? Una sorta di apprendimento formalizzato, è qualcosa che effettivamente condividiamo negli spazi di vita. Vedete che poi questo è un esempio che ha dei corrispettivi molto concreti, cioè occuparti di riabilitazione nel campo della salute mentale significa occuparti di quei gesti quotidiani che in larga parte ci sono così familiari da diventare assolutamente, per così dire, invisibili. Cioè io ho imparato, per esempio, stando nel campo, diciamo, facendo ricerca appunto con pazienti che magari hanno situazioni complesse legate alla psicosi, che fare una doccia può essere complicatissimo. Cioè che effettivamente, per esempio, per una persona andare sotto la doccia potrebbe essere una esperienza molto traumatica. Oppure che, per esempio, il rapporto con l'acqua. Da lì capisco che i laboratori che prevedono di andare in piscina, poi ci darò un operatore sociale, cioè i laboratori che dicono andiamo in piscina, non sono l'equivalente di andare in piscina per uno che no, dice vabbè è estate, facciamo una cosa. Qui c'è una bella espressione, no, di Benedetto Saraceno, che è uno psichiatra, che adesso tra l'altro è uno dei punti di riferimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lui ha intitolato il libro La fine dell'intrattenimento. Cioè, capite che molte di queste azioni potrebbero essere esclusivamente legate a intrattenere. E molta psichiatria ha fatto e continua a fare questo. Cioè, si può fare, no, un laboratorio teatrale semplicemente perché dobbiamo occupare il tempo, no? Potremmo fare questo tipo di iniziative apparentemente, no, diciamo, laterali, ma semplicemente perché dobbiamo, per così dire, gestire questo tempo che si dilata. Ora, la fine dell'intrattenimento è una sfida perché significa fare riabilitazione in un modo completamente diverso. Ora, pensiamo, ad esempio, adesso mi viene in mente che molte interviste con gli infermieri, no, che hanno vissuto l'ospedale psichiatrico, no, mostrano che occupare il tempo, che è un tempo vuoto, il tempo di istituzione, è uno dei grandi, potremmo dire, elementi dell'istituzionalizzazione della follia. Quindi, in questo senso, per così dire, fare intrattenimento nella riabilitazione è, potremmo dire, un pezzetto di ospedale trasportato nel territorio. Non so se ho chiarito, ma è chiaro che capite che tutte le volte che questo tipo di azioni, no, non riflettono sulla problematicità di questi, potremmo dire, piccoli cambiamenti nel quotidiano, è chiaro che potrebbero semplicemente bloccare di nuovo una situazione all'interno, a questo punto, della sfera domestica, della situazione lavorativa, o naturalmente anche per esempio il rapporto con la città. Quindi, dicevo, un sapere che ha a che fare con la pratica, quindi che potremmo dire ha a che fare con il modo in cui trasformiamo la realtà quotidiana e la conosciamo trasformandola, no? Vorrei in secondo luogo interrogarmi sul significato politico, inteso come trasformazioni ma anche rapporti, no, di potere che vengono toccati da questo tipo di sapere, cioè che ha a che fare con le azioni quotidiane, quando viene scambiato nella sfera pubblica, cioè quando per esempio emerge da situazioni relativamente protette, tendenzialmente collocate nello spazio terapeutico e riabilitativo, e investe dei luoghi, degli spazi, delle situazioni che hanno a che fare invece con la vita pubblica della città, no? Potremmo dire riguardano la polis, no? In questo senso. Tutte le volte che si ha questo cambiamento, per quello che ho visto nella mia esperienza etnografica, ci sono effettivamente delle situazioni estremamente interessanti. Cioè, si capisce quanti elementi contraddittori stanno dentro questi tentativi, perché effettivamente è difficilissimo, per così dire, sganciarti da, potremmo dire, da delle procedure anche, no, di controllo, di regolamentazione che riguardano la vita dei pazienti, no? E d'altra parte come questo tipo, diciamo, di cambiamento, come possiamo dire, cioè, per certi versi, ecco, cioè, da un lato potremmo dire trasforma la realtà, ma è molto difficile da riconoscere. Quindi, per certi versi, investe, potremmo dire, le pratiche quotidiane della psichiatria, ma per certi versi pone delle domande allo stesso essere cittadini. Cioè, per certi versi porta ad esplicitare delle questioni che spesso sono, per così dire, connesse al rapporto che ciascuno di noi ha con gli spazi pubblici e con la vita pubblica, quindi dei, potremmo dire, alcune delle coordinate di quelle che consideriamo diritti di cittadinanza, che in questo modo vengono interrogati. Mi è capitato, per esempio, in una discussione di questo tipo, c'era meno gente, ma c'erano soggetti diversificati, a Gubbio, in cui si parlava dell'inserimento lavorativo dei pazienti psichiatrici. In quell'occasione una degli operatori, un'operatrice, no, diceva, beh, in effetti abbiamo fatto questo tipo di iniziative, però bisogna lavorare con gli imprenditori che molto spesso vogliono avere informazioni sulla vita del paziente, no? Perché in un certo senso è anche ragionevole, se ci pensate, no? Cioè sapere come si potrebbe costruire meglio un rapporto è legittimo, ma in effetti siamo sicuri che noi vogliamo sapere così tante cose, no, di una persona che poi entra in questo spazio di, no, del lavoro? Cioè, e soprattutto, siamo sicuri che il comportamento delle persone abbia a che fare con una sorta di sintomo di malattia, no? Naturalmente questo emerge solo nel caso della salute mentale. Solo se qualcuno ha avuto una diagnosi, che ne so, di tipo di disturbo bipolare o legato alla psicosi, sì, qualcuno potrebbe pensare che uno potrebbe far male il proprio lavoro o avere qualche disagio, no, nelle relazioni. Ma come diceva per esempio una operatrice, cioè, è pieno per esempio di bravissimi operatori, non so, nel campo delle comunicazioni o impiegati che hanno l'ulcera, oppure che hanno, no, non lo so adesso che cosa ho, cioè, no, ognuna, diciamo, delle patologie che tendenzialmente non devono essere detettate per sapere come io starò dentro al mio spazio lavorativo. Questo naturalmente ha a che fare proprio con una possibilità di interrogare le relazioni di lavoro e i luoghi di lavoro. In quella stessa occasione alcuni dicevano, beh certo, bisognerebbe collegare di più i pazienti con la città, no? Trovare il modo per esempio di fare queste iniziative in cui ci siano un maggiore rapporto, si costruisca una sorta di relazione, no, tra i pazienti e la città. Un paziente, mio amico, di cui non faccio il nome, nel senso, interviene in quel contesto, lui che dice di essere un paziente storico, e fa una domanda assolutamente, secondo me, folgorante per chi fa etnografia. Lui dice, benissimo tutto questo, ma io vorrei capire qual è la relazione, cioè se riusciamo a riflettere come possiamo migliorare, sinceramente, la relazione tra gli operatori, i psichiatri, come possiamo dire, gli imprenditori e la città. Cioè in realtà lui mostra che quello che sembra essere un problema del paziente è in effetti un interrogativo che va posto direttamente a tutti i cittadini che in quel momento sono impegnati a trovare il modo di creare un inserimento lavorativo. Questo per me naturalmente, capito, è una sorta di risorsa, no? Perché quando uno prova a fare ricerca, a descrivere tutti questi elementi, no, questi interrogativi, è come se portassero alla luce delle situazioni che in larga parte non vengono, no, affrontate o discusse. Quindi vi dicevo, portare questa parte sullo, diciamo, di azioni, anche come dicevo, non sempre è facile raccontare nello spazio pubblico, ha un impatto significativo proprio sul modo in cui noi pensiamo anche la stessa questione della cittadinanza oggi. Naturalmente, come dicevo, questo fatto che le pratiche possono essere più o meno recuperabili o difficilmente trasmissibili ha a che fare poi con questioni di fondo, cioè un problema di comprensione e, possiamo dire, traducibilità dell'esperienza, no? Alcuni operatori si chiedono come si possono tradurre a chi non è del campo della salute mentale quelle iniziative che riguardano il quotidiano e le azioni ordinarie. Cioè questo in effetti, se ci pensate, poi è una cosa che può toccare molti campi, no? Molte relazioni sociali. D'altra parte ha a che fare proprio con quello che dicevo, il problema centrale è la trasmissione della conoscenza e anche delle memorie di questi cambiamenti. Cioè sì, è evidente che molto spesso raccontare quello che è avvenuto non cattura, potremmo dire, quasi mai riesce a essere, per così dire, reimmesso in nuove pratiche. Quello che magari si può vedere è come questi racconti, queste narrazioni, per esempio di processi di istituzionalizzazione, oggi potrebbero dialogare con altre pratiche, altre reti di relazioni profondamente trasformate, diciamo profondamente diverse, ma che potrebbero avere all'interno degli elementi, per così dire, per certi versi riducibili, come quelli a cui ho fatto cenno prima. Perché parlare della pratica? Perché in effetti si capisce che rispetto a un certo modo di intendere, per esempio, la follia, qui è l'unica parentesi che faccio, ma sarebbe un intero seminario da fare, cioè come si in effetti si studia, no? Il rapporto tra follia e società è un tema, no, fondamentale. Cioè, per esempio, c'è un modo di intendere la follia interessante, se uno rilegge, adesso non so se per chi si occupa di antropologia, ma una lettura bellissima, l'introduzione all'opera di Marcel Mauss di Claude Lévi-Strauss del 50. Lévi-Strauss, quando diciamo parla di mediazione simbolica, cioè di come funzionano le società, individua una serie, potremmo dire, di sistemi di significati, no? E mostra a un certo punto, parla del folle come di una figura che per così dire è necessaria alla società. È come se fosse la figura garante che c'è, potremmo dire, una sorta di traducibilità e di scambio tra questi sistemi simbolici. Quindi potremmo dire, una volta che noi pensiamo alla costruzione del significato di una società, per certi versi collocarsi fuori o collocarsi ai margini o negli interstizi diventa una sorta di necessità. Questa è una idea fondamentale che poi, per esempio, credo che abbia dato un contributo significativo alla nascita di una disciplina che, diciamo, si è occupata del rapporto tra società e follia, che è l'etnopsichiatria. Quindi, per esempio, Georges Deveret, che è considerato un punto di riferimento, ha sicuramente avuto in mente, no, questa idea di Claude Lévi-Strauss su quello che è appunto l'idea, no, di dove potrebbe essere, no, questa necessità. La cosa però importante è che quando si parla invece di antropologia delle pratiche, è che molto spesso questa sorta di necessità legata alla visione di sistema, no, si scontra con un altro elemento invece fondamentale per l'antropologia, che è una sorta di irriducibilità degli eventi. Cioè, in realtà è proprio la centralità, potremmo dire, del tempo e del flusso del tempo che a un certo punto ci fa capire che molte di queste pratiche di cui parliamo hanno all'interno degli elementi che poi dialogano con quell'idea di follia a cui ho fatto cenno. Tenete conto che, per esempio, se uno segue Michel Foucault si accorge che, per esempio, lui lavora proprio su tutti i meccanismi che consentono di disinnescare l'aleatorietà dell'evento. Chiudo la parentesi, nel fare etnografia è fondamentale a questo punto entrare in quello che è una sorta di flusso, no, della pratica, e vedere proprio quanti elementi, potremmo dire, ci sfuggono mentre agiamo. L'esempio è classico, se io adesso mi metto a ripetere sul modo in cui io pronuncio le parole, naturalmente questa mia capacità, no, che è evidentemente per certi versi riflessa, no, si blocca, no? Cioè tutte le cose, o ciascuno di voi adesso si interroga sulla tecnica dello scrivere, se sta prendendo appunti, immediatamente si blocca, no? Perché ha a che fare con questo limite, no? Dentro a questo limite ci sono molti degli elementi, potremmo dire, difficili da simbolizzare, che possiamo trovare in quei, potremmo dire, ambiti quotidiano in cui potremmo dire riflettere sulla follia. Naturalmente questo ha a che fare con, potremmo dire, un elemento che a me interessa molto, cioè che in effetti abbiamo però un'esperienza quotidiana di questo flusso di pratiche, cioè per certi versi molti di questi saperi ci attraversano, no? E per così dire ci consentono, no, di affrontare anche situazioni nuove, naturalmente improvvisando, sapendo che a questo punto tutte le volte che li vogliamo bloccare, questo è il problema della ricerca, ed ecco perché adottare dei metodi, diciamo, processuali, tutte le volte che li vogliamo bloccare, per certi versi perdiamo l'oggetto stesso della questione. È per questo che si parla di modi, diciamo, plurali, politetici. Bourdieu, che è, diciamo, l'autore che più ha riflettuto, no, sull'antropologia e le pratiche, dice che le cose, per ragionare in questi termini, bisognerebbe trovare un modo di lavorare in cui a questo punto si capisce che le cose non vengono solamente l'una dopo l'altra, ma una ad una. Quindi sostanzialmente siamo dentro a un flusso che di questa irreversibilità dovremmo farne una sorta di oggetto di riflessione. Perché questa, diciamo, breve parentesi molto densa, ma su cui credo che poi bisognerebbe anche discutere? Perché in effetti nelle pratiche microscopiche quotidiane, nel mio caso per esempio ho scritto un pezzo sul giocare a pallone, no? Giocare a pallone un anno con pazienti, operatori e altre persone che giocano calcio a 5, no? È uno di questi eventi che fa, per così dire, è emblematico per certi versi, estremamente significativo, riguarda tutto quello che noi perdiamo. Nel momento in cui si gioca è chiaro che si sta dentro a questo flusso di pratica in cui le cose avvengono una ad una, no? E per certi versi bisogna avere, per così dire, il senso del gioco. Come dice Bourdieu, non si tratta solo di saper giocare, conoscere le regole. Si tratta, per esempio, di saper fare una finta o rispondere a una finta. Ora, se ci pensate, adesso per prendere l'esempio delle attività sportive, il calcio, pallavolo, qualsiasi cosa, la finta è una sorta di oggetto difficilissimo, no? Da descrivere. No? La finta significa che io mi aspetto dall'altro un'azione, no? Io reagisco preventivamente mostrando che sto andando in una direzione rispetto all'altra. Questa cosa, adesso chiaramente uno dice, vabbè, è veramente follia pensare di descrivere questi oggetti, però se uno ci pensa sono le cose più simili a quello che facciamo ogni giorno. No? Quanti, voglio dire, finte facciamo per così dire, seguire, non so, l'alchimia complessa dei crediti formativi? Cioè io personalmente, per me, no, come si fa per così dire, no, a districarsi dentro a... appunto, no, che ne so, al riconoscimento dello stage o altre cose, cioè si capisce che in realtà sono parte delle nostre pratiche, quasi mai le tematizziamo come oggetti dell'esperienza, no? Ma molto spesso hanno bisogno di senso del gioco, cioè il fatto che noi in effetti ne agiamo nel momento stesso in cui però ci troviamo immersi all'interno. Naturalmente questo è importante perché quando dicevamo, no, costruire un seminario diverso è una scommessa, secondo me è una di queste trasformazioni, no? Cioè, per così dire, adesso trovare un modo altro per trovare, no, per il modo di lavorare diverso, che non sia soltanto questo, che è quello più formalizzato, beh, questa è una cosa secondo me con una sorta di compito, per, credo, no, di un seminario come questo. Perché molto spesso sono pratiche che veramente abbiamo incorporato, no, per certi versi. Naturalmente va considerato che quando dico riflettere su questi aspetti, che effettivamente la situazione italiana è importante perché va storicizzata e la psichiatria italiana cambia con queste pratiche che vi dicevo sono microscopiche, cioè in larga parte veramente non sono rappresentabili, ma cambia, potrei dire, in modo così drastico a partire da una posizione che è estremamente arretrata. Cioè qui va detto, cioè, che la psichiatria asilare italiana, la psichiatria manicomiale, era veramente una delle psichiatrie più, diciamo, retrive, più arcaiche in Europa. E non è un caso che Basaglia quasi subito si sposta a riflettere criticamente su quello che potrebbe essere il futuro della comunità terapeutica, perché già vede nella comunità terapeutica elementi che potrebbero disinnescare le pratiche, o che per esempio comincia a studiare il sistema, no, di salute mentale negli Stati Uniti, perché nel sistema della salute mentale negli Stati Uniti già la logica manicomiale saltava, c'era molto più, no, l'idea di prestazione farmacologica e per esempio di gruppi di psicoterapia. Allora naturalmente è interessante questo, no? Si capisce che potremmo dire la trasformazione è avvenuta a partire da una situazione molto rigida, no? Ma che dentro a questa sorta di cambiamento ci sono delle prospettive che guardano la contemporaneità da subito. Quello che in effetti ritrovo nell'agire quotidiano in molti di questi contesti è che oggi la situazione è sensibilmente modificata, ci sono moltissime iniziative difficili da collocare, appunto la rete per esempio delle attività sportive nel campo della salute mentale è qualcosa che va studiato, è assolutamente innovativo, no? È un modo di ragionare sulla cittadinanza e sull'azione corporea dentro una rete che parte dalla salute mentale, ma che necessariamente dovrebbe investire, per esempio, no, tutti i contesti in cui i centri di salute mentale agiscono. Oppure le nuove esperienze di abitazione, no? Come si fa a trovare il modo, per esempio, di abitare in una situazione vivibile, anche protetta per una persona che potrebbe avere alcune difficoltà, superando la logica, potremmo dire, no, del gruppo appartamento così come si è andato configurando? No, quante forme possibili dell'abitare possiamo immaginare, sapendo che poi la questione andrà affrontata caso per caso, no? Situazione per situazione, esperienza individuale per esperienza individuale. Allora, tutto questo, capite, è di grande interesse perché è sperimentale, innovativo, ma ha a che fare con, potrei dire, tutta una serie di elementi che invece, potremmo dire, costruiscono una cornice piuttosto rigida. Una, per esempio, i modelli classificatori e di diagnosi che si strutturano sempre più in relazione al trattamento farmacologico. Quindi è chiaro che si cercano sempre più dei criteri standard di diagnosi che poi corrispondano a determinate forme di prestazione. Questo è entrato nella pratica e capite che per certi versi è una sorta, potrebbe essere questo uno di quegli elementi che non riconosce, no, la pluralità di quello che avviene. Altro elemento, per esempio, sono ovviamente la gestione di tipo aziendale di molte di queste iniziative. Capite che se ragioniamo in un'ottica ospedaliera, molti dei conti torneranno, nel senso che si può ragionare nell'ottica di promuovere, no, dei progetti da finanziare in base al numero di prestazioni erogate e quindi di utenti serviti, ma se ragioniamo in quest'altra ottica la logica ospedaliera salta completamente, no? Cioè non possiamo ragionare in termini di costi letto o per esempio di quantità di farmaci, dovremmo ragionare, come è successo a me quando stavo lì, per esempio, quanti soldi si potrebbero utilizzare per fare del teatro, no? Con il gruppo che fa teatro in un centro accoglienza diurno, no? Allora lì si capisce che la domanda è: ma il teatro chi lo finanzia? Lo finanzia la salute mentale, cioè la sanità, o lo finanzia il sociale? Sono le etichette, no? E in realtà quel punto dice: vabbè, se lo deve finanziare la sanità, mi devi dire che cosa fa? Fa bene? Cioè, che tipo di, no, sostanzialmente, come monitoriamo questa sorta di processo? Come lo collochiamo dentro uno spazio relativamente, potremmo dire, no, medicalizzato? No? E capite che tutti questi tipi di elementi contraddittori emergono ogni volta che c'è un'azione innovativa. Quindi far riconoscere questo tipo di azioni innovative è di grande importanza, credo, è di grande importanza per la salute mentale, ma in generale è di grande importanza per riconoscere cose nuove che in questo momento stanno avvenendo e che magari in larga parte non sono comunicate, non sono riconosciute. Detto questo, forse dovrei dire due parole perché ho fatto ricerca a Gubbio, cioè all'inizio in effetti Gubbio, adesso ci sono persone che stanno lavorando là, no? Penso a Eleonora, che cioè chi lavora a Gubbio per esempio si trova a ragionare sulla follia in una città che è considerata la città dei matti in Umbria, no? Allora questo ovviamente da un lato può essere visto semplicemente come una sorta di, come possiamo dire, no? Di gioco di parole, no? Però a pensarci bene, se uno segue, no, la situazione specifica, si accorge che questa sorta di stereotipo è giocato in vari contesti e in varie situazioni nei luoghi pubblici, nei contesti pubblici. Quindi a pensarci bene, questo che potrebbe essere un gioco diventa una cosa molto seria quando ragioniamo sui modi in cui la follia è cambiata, potremmo dire, nei contesti pubblici. Non ultimo il fatto che, per esempio, a Gubbio, il luogo dove ho lavorato, la dinamica, la costruzione, diciamo, rituale, no, legata per esempio alla corsa dei ceri, è qualcosa che investe veramente tutti i rapporti sociali della città. Per me, per esempio, quindi andare alla corsa dei ceri con amici che sono pazienti, operatori, terapeuti, diventa veramente di nuovo uno di quegli elementi, no, interessanti da andare a studiare dentro al flusso delle pratiche, no? E non come una sorta di riconferma di una sorta di stereotipo. Perché è importante ragionare su questi aspetti? Perché capite che poi molti di questi elementi che io non toccherò qui, poi riemergono ogni volta che le azioni del centro di salute mentale o della rete della salute mentale dialogano, no? Nei contesti come questo, no? Che sono collettivi, che hanno forme di riconoscimento nella città, no? Che cercano di dialogare con diversi, per esempio, associazioni del luogo, e tutto questo evidentemente diventa una sorta di linguaggio che qualche volta filtra, no? Dentro a queste sorta di potremmo dire, incontro e negoziazioni. Non mi soffermo su questo, è chiaro che tocchiamo una questione che ha a che fare, potremmo dire, con degli elementi, per certi versi, che da un lato costruiscono delle forme di intimità, no, all'interno della comunità, ma dall'altro sono problematici. A me è capitato, per esempio, di andare a vedere come è stato passato nei media, quindi soprattutto nei giornali, in un certo periodo storico, il numero di suicidi nella città di Gubbio, no? E vedere come questo poi si traduceva in alcune narrazioni obiettivamente inquietanti. Cioè quell'immagine giocosa e trasgressiva e la follia si trasformava veramente in una sorta di immagine minacciosa, no? Di qualcosa di oscuro che sta, diciamo, nella città. Quindi anche su questo, attenzione, è nel corso, diciamo, delle pratiche, in questo cambiamento continuo che fa questi elementi, no, che ritroviamo nello spazio rituale, possono essere di nuovo ritrovati. Nel campo della salute mentale sono, direi, la cosa che mi interessa è la pluralità degli agenti, cioè le diverse posizioni sociali e potrei dire la diversità delle possibilità di interagire da parte di soggetti che sono molto differenziati. Quindi attenzione, direi, a seguire non solo, potremmo dire, la storia del paziente, ovviamente, ma semmai capire come si trasforma un intero contesto in cui interagiscono diversi, no, ovviamente, soggetti. Che riflettono sulle proprie, potrei dire, azioni. Naturalmente il paziente è fondamentale perché è proprio seguendo la situazione individuale che vediamo come molte delle azioni si incrociano. Cioè quasi sempre i servizi danno risposte singolari, tendenzialmente, a domande diversificate. Poi ci si accorge che i pazienti, gli utenti, attraversano quasi tutti i servizi facendo molte domande, no? E se uno vuole ritrovare quella pluralità che mette in crisi molte, diciamo, delle pratiche più strutturate, quindi quelle più istituzionalizzate, dobbiamo proprio stare vicino ai pazienti. Per fare un esempio, Mauro dipinge. È un utente del centro di salute mentale da vari anni. Questo significa che insieme ad altri pazienti segue un progetto di riabilitazione nel quale trova organizzati concretamente molti aspetti della sua vita quotidiana. Si reca al servizio psichiatrico a prendere la terapia. Questo è curioso, prendere la terapia è un termine che usano i pazienti e che per me all'inizio era sorprendente, ma è quelle cose, io non ho mai sentito, no? Qualcuno che dice io prendo la terapia, uno la fa. Cioè, invece prendere la terapia era proprio tecnicamente quello che avveniva a una certa ora del pomeriggio quando ci si trovava lì, no? E praticamente si sapeva che c'era questa sorta, no, di rapporto con, diciamo, la parte ambulatoriale per quanto riguarda la somministrazione del farmaco. E questo è, per così dire, un linguaggio specifico che fa capire che molte persone poi si conoscono perché si ritrovano lì a una certa ora. A Mauro capita come capita a molti altri. Si confronta con le difficoltà di un inserimento lavorativo, quindi pensate che per esempio in molti casi si tratta di sperimentare dei progetti a tempo che permettano alla persona di confrontarsi con un lavoro sostenibile, dove naturalmente questa sorta di sostenibilità è continuamente negoziata da diversi soggetti. Ci può essere il terapeuta che dice la sua, ci può essere per esempio un modo di organizzare il lavoro da parte degli imprenditori, ci può essere anche una sorta di monitoraggio da parte, per esempio, di alcuni operatori delle cooperative sociali che seguono questo inserimento, e tutto questo è una sorta veramente di combinazione complicatissima di piccole azioni. Naturalmente discute periodicamente la propria situazione in incontri individuali con la sua psichiatra, o in incontri anche con i familiari e la psichiatra, o in riunioni anche collettive quando si fanno, per esempio, nel centro accoglienza diurno. In questi e in altri modi Mauro cerca di affrontare ogni giorno i problemi che sono sorti quando comincia a restare a lungo in silenzio e trascorrere gran parte del suo tempo chiuso in camera, e quello fu il momento qualche anno prima in cui i suoi genitori e il fratello chiesero aiuto al servizio psichiatrico. In realtà questo mi interessa, questo livello di descrizioni, cioè è qualcosa che accade, potrebbe accadere a ciascuno di noi, il modo poi come si intrecciano tutte queste pratiche, no, nella vita di questi soggetti, di queste persone, è veramente, potremmo dire, qualcosa che è di difficile descrizione, proprio perché è sempre contingente, è sempre legato a una sorta di scommessa sulla pratica quotidiana, quell'idea che bisogna fare le cose e poi rifletterci sopra. Perché ho occupato in particolare, nel caso specifico magari, di diagnosi di psicosi? Perché sono spesso alla diagnosi di psicosi legati quei progetti con progetti complessi in cui appunto lavoro, abitazione, incontri per esempio anche forme di psicoterapia, laboratori creativi, si intrecciano dentro a quello che è da un lato un progetto individuale che deve interagire con altri progetti, diciamo, no, complessivi. Questa cosa è importante perché toccano tutti gli spazi della vita quotidiana, è veramente uno di quei luoghi in cui potremmo dire abbiamo a che fare, no, con una sorta di effetto sulle politiche della vita, no? In questo senso la presa in carico dei pazienti psicotici è interessante per un'altra dimensione, che hanno tempi lunghissimi. Cioè l'altro elemento centrale che, se ci pensate, aumenta la problematicità è che, per esempio, uno naturalmente può entrare in una rete, no, di risposte psichiatriche e forse starci tutta la vita. Cioè io, per esempio, mi è capitato di discutere con gli operatori del fatto che a un certo punto si interrogavano sulla domanda: ma noi riusciamo veramente a pensare alla, diciamo, alla uscita, no, di questa persona dalla nostra, no, forma di cura? No? E in effetti può arrivare il momento in cui, in questa pratica quotidiana, se uno non immagina, no, la prospettiva che una persona possa effettivamente essere fuori, no, in realtà si può riprodurre questa sorta di legame, no? Quindi anche su questo credo che è interessante seguire le situazioni più complesse. Recentemente Francesco Scotti, che è uno, no, dei protagonisti della trasformazione della psichiatria, no, comunitaria, territoriale in Umbria, faceva notare in un incontro comune, dice: attenzione, dice, noi parliamo adesso continuamente di rete, siamo sicuri che in alcuni contesti, in alcune situazioni, noi non produciamo circuiti? E se produciamo un circuito, no, come facciamo a spezzarlo? E in effetti, se ci pensate bene, tutte queste pratiche, no, che si connettono tra loro, da un lato possono produrre delle reti, potremmo dire, una sorta, no, di proliferazione che si allarga la città, ma in altri momenti potrebbero a un certo punto girare a vuoto e produrre una sorta di circuito. Questa idea naturalmente va indagata, no? Va pensata come uno degli elementi problematici che poi immagino le esperienze anche degli operatori potrebbero svoltare, no? Perché giustamente qualcuno potrebbe dire: certo, occupiamoci di questi cambiamenti straordinari, l'aspetto positivo, ma poi per esempio quanto disagio c'è nella pratica, no, dei servizi in cui a un certo punto ci si accorge che sembra di girare a vuoto, no? Naturalmente tenete conto che quando parliamo di riabilitazione, è un'altra parola, qui adesso io provo anche a smontare, no, delle parole, se ci pensate è una parola molto ambigua, no? A me capita di discuterne spesso con Roberta, che, no, richiama questa cosa, riabilitazione, cioè c'ha dentro un sacco di elementi. Ma in effetti, se uno pensa, no, riabilitare, rendere abile di nuovo, in sé c'è proprio un elemento strano, cioè sembra che uno dovrebbe riappropriarsi di qualcosa che aveva e che ha perduto. Quindi in un certo senso c'è una sorta di rieducazione all'interno, che se viene letta in una chiave, potremmo dire, bloccata, ovviamente di nuovo, potremmo dire, ci riporta dentro la cornice bloccata dell'istituzionalizzazione. A me è capitato di sfogliare i manuali di riabilitazione, delle tecniche di riabilitazione fabbricate negli Stati Uniti, no? Adesso circolano anche in Italia. L'effetto di lettura di questi manuali può essere veramente perturbante, cioè nel senso che ci fa scoprire delle cose oscure che sembrano stare dentro le nostre azioni quotidiane, cioè come se ci trovassimo, come dire, di fronte a un mondo completamente estraneo. È come se tornassimo quindi di fronte a una sorta di, come dire, di racconto, in questo senso, di narrazione dell'agire quotidiano che ci fa sentire completamente strani. E il fatto che venga applicato ai pazienti è effettivamente uno di quegli elementi che è problematico, no? Va indagato. Io volevo provare a leggere per esempio una cosa che, cioè, mi sembra veramente ha un effetto ironico ma anche tragico. Abilità di gestione della vita quotidiana, cito, abilità, mangiare e bere in modo educato. Finalità, in molte situazioni sociali si mangia e si beve. Se mangiamo e beviamo in modo educato, le persone avranno piacere a invitarci a queste occasioni. Molti conoscono già questa abilità, ma sempre è utile passare in rassegna i punti principali. Finalità, in molte situazioni sociali si mangia e si beve. Ah, scusate, passi dell'abilità adesso. Uno, prendere tempo per controllare la temperatura del cibo della bibita. Pensate che qui stiamo ragionando di quell'agire incorporato di cui parlavo prima, no? Cioè tutti sappiamo come controllare il calore, lo facciamo quotidianamente, ma nessuno pensa o gira in tasca con una sorta di libretto delle istruzioni tipo elettrodomestico, no? Per cui se le legge. Quindi qui si trova effettivamente questa trasformazione straordinaria. Due, mangiare lentamente e masticare bene il cibo. 3. Non parlare quando la bocca è ancora piena. 4. Pulirsi la bocca e le mani con un tovagliolo. Considerazioni particolari per l'insegnamento di questa abilità. I conduttori dovrebbero ricordare ai pazienti che i passi elencati nell'abilità sono proprio i punti essenziali. Quindi i pazienti dovrebbero essere aiutati a compilare un elenco di altri comportamenti relativi a come si mangia e si beve in modo educato. 2. Per esercitarsi in questa abilità occorre utilizzare cibo e bibite veri. Se nelle sedute sono già inclusi degli spuntini è meglio portare cibi particolari, ad esempio torte, pizze, gelati da usare per esercitarsi. I conduttori daranno un feedback ai pazienti sulla loro bravura nel seguire i quattro passi dell'abilità, così come su qualsiasi altro comportamento identificato dal gruppo come pertinente e rilevante. Quasi agghiacciante. Cioè, quello che vorrei assicurare su questo è che io non ho mai trovato cose di questo tipo ragionando con gli operatori. Anche se so che effettivamente molte di queste piccole operazioni sono oggetto delle attenzioni quotidiane, no? Però capite che nel momento in cui si trasforma questo tipo di interazione quotidiana, no? E di pratiche prima di tutto contengono le relazioni, in una sorta di decalogo di questo tipo, tutto quel potenziale di trasformazione di cui parlavamo prima, secondo me è assolutamente, no? Ormai definitivamente, no? Disinnescato. È per questo quindi che anziché andare in questa direzione, che è quello che potremmo trovare, ma poi si possono smontare questi manuali, no? Andare a capire chi è che li usa, a vedere in quali tipo di psichiatria, perché le psichiatrie in Italia sono molteplici innanzitutto, no? Questa è una cosa che è stata detta più volte, ma è chiaro che ci sono psichiatrie che lavorano così, fortunatamente ci sono psichiatrie che così non lavoreranno mai. È chiaro che però dentro a questo tipo di pluralità di possibilità, no? Tenere conto che c'è anche questo rischio è fondamentale. Come dicevo, è a questo punto fondamentale andare a vedere proprio quelle pratiche che sono irregolari. Come dicevo, perché occuparsi, che ne so, del gioco del calcio, o a me è capitato di seguire la costruzione di un libro sulla santità in Umbria? Semplicemente perché veniva fatto lì, era una cosa che non si sapeva esattamente come sarebbe andata a finire, ma era qualcosa in cui cooperavano attivamente operatori, pazienti e terapeuti. Stando lì dentro, molte di queste, potremmo dire, regole, naturalmente si dissolvono e si costruiscono altre modalità dell'esperienza, no? Adesso mi viene in mente, non so, cioè lei che per esempio ha sicuramente partecipato a una di queste scommesse un po' folli che è il treno a Pechino, no? Per cui per questo forse è interessante discutere delle... Il treno per Pechino, che è stato costruito da una rete della salute mentale in Italia, a cui ha partecipato un gruppo in Umbria, in particolare c'era poi un colto gruppo di Gubbio, ha provato praticamente a fare un viaggio, non è che ha provato, l'ha fatto, cioè è andato e è tornato, poi non so se si riuscirà a vedere il video, è stato girato anche un documentario, no, su questo. Praticamente, infatti si chiama CIMAP, no? Centro Italiani Matti a Pechino, nel senso che ha fatto questo lungo viaggio dall'Italia, quindi il viaggio di Marco Polo a Pechino, scommettendo su un'altra modalità di relazione. E per esempio per me, che non sono potuto andare perché purtroppo non ce l'ho fatta per motivi inderogabili, ma è fondamentale ascoltare adesso il modo in cui si racconta come si sono superate difficoltà in altri momenti che era impossibile pensare di superare. Cioè, vivere per esempio in spazi così ristretti come dei vagoni, no? Praticamente delle cuccette, no? E diciamo dentro a un treno, per persone che appunto hanno vari livelli di difficoltà, no? Anche problematiche relazionali, in alcuni momenti può sembrare qualcosa di assolutamente sconsigliabile, no? Io sono convinto che molti potrebbero aver detto questa è una cosa che proprio non si può fare. In realtà farlo e poi rifletterci sopra è una di quelle cose che poi ha sicuramente apportato, per esempio, una certa, come dire, entusiasmo anche alla rete che ogni giorno lavora oggi, no, nel campo della salute mentale a Gubbio. Quindi questo per dire, no, queste cose ibride e strane che si fanno, che sono spesso delle scommesse che poi in effetti andrebbero rielaborate e magari scambiate con un linguaggio, con delle narrazioni adeguate, per così dire, per allargare il dibattito, no, su queste esperienze. Quando dico lavorare sulle pratiche in situazione, cioè questa cosa per cui molti di questi saperi hanno a che fare con che cosa si fa concretamente, cioè non è che io imparo a mangiare, a cucinare seguendo il libretto di questo appunto, questo manuale, ma lo faccio per esempio provando a sperimentarmi in cucina insieme agli altri, no? Dico, stare dietro a queste pratiche poi mostra che sono degli elementi assolutamente interessanti, perché per esempio mentre si fanno cose assolutamente quotidiane si può parlare anche di esperienze straordinarie, ed è questo un po' che mi interessa, no? Cioè quando dicevamo una certa la follia non è completamente disinnescabile, no? Non è tutta, potremmo dire, inclusa dentro al trattamento medico sociale, no? Allora, per esempio, molti di quello che accade poi concretamente mentre si fanno insieme delle cose è uno degli elementi fondamentali, credo, su cui vale la pena oggi aprire dei laboratori. Perché i contesti terapeutici e riabilitativi, comunque dello scambio sociale in cui si lavora ogni giorno, costringono a fare i conti con orizzonti visibili per alcuni e invisibili per altri, con voci udibili per alcuni e non udibili per altri, con esperienze straordinarie che alcuni possono narrare ad altri o possono scegliere di non rivelare. Questo è un altro elemento, diciamo, dell'esperienza che solo in, potremmo dire, rapporti, potremmo dire, sperimentali e così dinamici possono emergere. È capitato, ad esempio, che Anna chiedesse un mio parere sulla possibilità che la cattiveria e l'invidia potessero far male alle persone. Esseri malvagi potrebbero parlare male e nutrire odio per gli altri, un odio che lei racconta, passa, no, diciamo, viene anche da generazioni lontane. E la sua domanda però, dal tono distaccato, aveva avuto un corrispettivo concreto quando mi racconta di esperienze notturne che aveva avuto qualche giorno prima. Quindi praticamente che questo attacco di una figura ostile era avvenuto di notte nel sogno, ma i risultati si erano manifestati con segni fisici. La mattina al risveglio mi diceva trovato sulle braccia dei lividi. Qui è interessante, lei naturalmente sta ragionando con uno che immagina che forse di queste cose ne possa anche capire, perché gli antropologi si occupano anche di queste cose strane, ma in realtà lo fa perché c'è un contesto che consente di farlo. Cioè, in realtà questa modalità di scambiare esperienze straordinarie, no, è qualcosa che bisogna costruire con pazienza e con modalità di relazione e di tipo dialogico, no? Quindi il fatto che lei abbia cominciato a ragionare queste esperienze dentro al laboratorio sulla santità in Umbria è di fondamentale importanza, quindi non abbiamo tempo per smontarlo, per raccontarlo. Ma si capisce che a un certo punto lei, mentre pensava per esempio alla possibilità che si potesse avvenire qualcosa di negativo e diabolico, tra virgolette, pensava anche che la sua esperienza, ma perché non potrebbe essere interpretata come una serie di tentazioni che potrebbero essere esattamente le tentazioni che leggevamo dentro alle geografie delle sante? Cioè, in effetti, per diventare santi, no? Ma quante bisogna passarne, diceva Anna. E questo, dentro a questo tipo di esperienze, forse non c'era proprio questa possibilità, no? Di raccontare appunto questi eventi anche, no? Difficili da esprimere a persone che in larga parte potrebbero non recepirle. Teniamo conto che l'idea che un racconto di una cosa difficile da percepire per gli altri potrebbe diventare un sintomo, no? Da incastrare dentro un quadro diagnostico è probabile, no? Potrebbe avvenire in un contesto, no, terapeutico di tipo psichiatrico. Quindi capite che trovare le altre vie di uscita, cioè ricollegare queste pratiche per esempio alla preghiera, no? All'esperienza, no, del vissuto religioso così come l'ha vissuto la signora Anna, così come l'ha sperimentato, beh, questo è effettivamente un modo, potremmo dire, per sviluppare questa, diciamo, riflessività sulle pratiche in un, potremmo dire una direzione estremamente, no, innovativa. Naturalmente ci sono sempre due soluzioni: si può disinnescare o si può, come diceva Basaglia, si può recuperare interamente dentro la cosa, oppure si può rilanciare, no? Si può vedere dove ci porta e rifletterci sopra. Altre cose interessanti, io so che per esempio Michele aveva problemi con una figura simile al diavolo, però in realtà non mi interessa, potremmo dire, il vissuto inteso come racconto del delirio. Quello che mi interessa, per esempio, è la situazione in cui ci siamo trovati quando facevamo un'escursione presso Villa Fontavellana, e che a un certo punto, quando per esempio a un certo punto dice che ci racconta che lo zaino ha un peso che è cresciuto quasi in modo esponenziale, e per esempio quando invita a non testare le tracce degli zoccoli fessi lungo il sentiero. In realtà questa cosa ha a che fare con il suo vissuto di questa esperienza, potrei dire, no? Drammatica, dolorosa, rispetto anche a quelle che sono presenze demoniache, ma capite che è legata poi a uno scambio, potremmo dire, informale, che magari è accompagnato da una battuta, in cui tutti questi tipi, piani, no? Dell'esperienza si incrociano e poi possono risolversi anche felicemente. Quindi l'idea che, per esempio, questo peso sia provocato da qualcosa di oscuro, no? Di non... appunto, che fa parte di un'altra realtà, poi in realtà viene di nuovo scambiato dentro le relazioni e viene per certi versi riassorbito. Molti pazienti in effetti oggi lavorano proprio su questo terreno, cioè per esempio i laboratori e i gruppi sulle voci sono di grande interesse in questa chiave, cioè si può in un certo senso cominciare a riunirsi a partire dall'esperienza di aver sentito delle voci. Ora, si parte dal presupposto che non necessariamente sentono voci solo le persone che poi avranno una diagnosi psichiatrica, no? Cioè, in questo tipo di esperienza, che potrebbe essere anche riletta come un'allucinazione uditiva, potrebbe entrare dentro a un altro, potremmo dire, modo di vivere, no? alcune situazioni, no? Della vita, e che potremmo scambiare anche noi. Adesso non è che vi chiederò chi è che sente le voci, perché questo è un contesto in cui nessuno ce lo direbbe, forse. Però è probabilissimo, vi assicuro, che se cominciamo a costruire un laboratorio sulle voci, cominceremo sicuramente a lavorare su delle esperienze che in larga parte in questo momento ci sono assolutamente, potremmo dire, sconosciute, no? E i laboratori sulle voci sono, tra l'altro, uno dei terreni più interessanti su cui ha lavorato recentemente Nick Crossley, che è un antropologo che si è occupato, diciamo, dei movimenti, dello sviluppo dei movimenti anti-istituzionali, anti-psichiatrici inglesi, che dopo il periodo, diciamo, del dibattito e il contributo fondamentale di Lange, Esterson, cioè diciamo una sorta di trasformazione che veniva da dentro la psichiatria, negli ultimi anni hanno a che fare con quelli che si fanno chiamare survivors, cioè i sopravvissuti della psichiatria, cioè quindi sono Ron Coleman, che penso è venuto anche a voi, chiedo sempre conferma, è per esempio un ex paziente psichiatrico con una diagnosi di schizofrenia che ha cominciato a mettere, diciamo, organizzare dei gruppi di auto mutuo aiuto a partire dall'esperienza delle voci. Ed è diventato, per certi altri, qui è interessante vedere le contraddizioni che attraversano queste figure, per cui a un certo punto è vero, è una sorta di sopravvissuto fuoriuscito dalla psichiatria, ma poi di fatto lui adesso organizza corsi dentro alla rete della salute mentale, quindi per certi altri diventa un operatore con la doppia formazione, no? Tutto questo è interessante perché, appunto, per secondo questo tipo di ricerche si vede che molto del lavoro attuale, per esempio delle forme di auto-organizzazione, potremmo dire, è meno debitore, potremmo dire, di quello che è stato il fondamentale contributo di soggetti all'interno della psichiatria, no? E ha innescato invece dei processi che forse dovremmo vedere dove ci porteranno e che stanno nascendo anche in Italia. Cioè, per esempio, tutta la rete dell'auto-mutuo aiuto ha alcuni elementi interessanti che richiamano questo tipo di esperienze, no? C'è un modo, diciamo, di lavorare anche su esperienze che precedentemente erano visti come sintomi, per allargare, potremmo dire, e renderle comunicabili anche. Di nuovo, scusate, ma chiaramente anche qui ci sono contraddizioni, perché non è l'auto-mutuo aiuto che in sé è buono, no? Perché io potrei fare un gruppo di auto e mutuo aiuto esclusivamente centrato sul sintomo o sulla diagnosi, e ce ne sono. Cioè tendenzialmente, per esempio, i pazienti, i familiari si raggruppano a partire da categorie già prefabbricate. Quindi, da un lato potrebbero ratificare, no, una sorta di sapere che viene dall'esterno. A partire anche da questi punti di partenza, però, potrebbero mettere in moto dei processi che potrebbero invece andare in altre direzioni, no? Quindi a me adesso interessa molto capire quanti soggetti diversi e come interagiscono questi soggetti nella rete della salute mentale in quanto appunto rete di auto e mutuo aiuto. Aggiungo forse poi, non so fino a che ora posso, per cui no, ma senza che parlo sempre io, se vogliamo dialogare per me è meglio, cioè questo. Naturalmente volevo aggiungere un paio di cose. Uno che, come dicevo, questo sapere di cui parliamo è imbricato, diciamo, nelle pratiche ed è intersoggettivo, cioè sta nelle relazioni. Quindi quando parliamo di sapere incorporato, attenzione a non rifabbricare un altro, come dire, soggetto, per così dire, no, che deve trovare tutto dentro al corpo. In realtà molto di quello di cui sto parlando sta nel movimento che è essenzialmente relazione, no? Quindi stiamo ragionando di differenze che interagiscono attraverso le relazioni, no? Quindi attraverso l'azione corporea. D'altra parte abbiamo a che fare con dei processi che sono essenzialmente collettivi. Quando parlo di pratiche, intendo proprio delle reti di pratiche, che poi divengono dei saperi che si riproducono. Quindi non sono solo delle scoperte individuali, hanno a che fare poco con quelli che chiameremo dei veri e propri modi di fare. Allora capire come i modi di fare poi in effetti trasformano i contesti e le relazioni, questo è quello che mi interessa. In tutto questo c'entra un'altra parentesi, che poi capite che se entriamo dentro a questo gioco di chi sente le voci, le esperienze straordinarie, poi bisognerebbe anche andare a capire quali sono, no, potremmo dire, i modi di interpretare quello che chiameremo lo spazio della mente, no? Perché in effetti potremmo cominciare a ragionare su tutto quello che ci vuole di materiale, di relazionale per parlare delle menti degli altri. E qui lo lascio con una, potremmo dire, una parentesi aperta, cioè è chiaro che noi per così dire cogliere l'intelligenza di un'azione dell'altro o la sensibilità, no? Per certi versi dobbiamo disporre, no, di una sorta di conoscenze, di pratiche che fabbricano la mente nell'interazione quotidiana. Qui secondo me è fondamentale pensare al fatto che noi in effetti questo tipo di conoscenze le riproduciamo giorno per giorno anche come attori che non sono degli specialisti. Cioè troppo spesso noi tendiamo a dire che di questi temi se ne occuperà qualcuno, no, che è, come dire, una sorta di no, professionista, no? Cioè pensate a come passa molto del dibattito, no, su alcuni problemi che viene psicologizzato, no, nei media, no? Perché quasi sempre c'è lo psichiatra? Adesso non faccio nomi, ma no, li conosciamo tutti, cioè sia di destra, di sinistra, quelli che vanno da Vespa, perché in realtà molto spesso c'è una sorta di delega, no, sulla decodifica del mentale, che tendenzialmente sembra essere quasi data meccanicamente a un ipotetico professionista, no? Laddove questo tipo di analisi di quello che facciamo ogni giorno, in particolare il campo della salute mentale, mostra che potremmo dire questa fabbricazione della mente come oggetto intersoggettivo, scambiato, è qualcosa a cui contribuiscono tutti. Cioè contribuiscono persone proprio, che quelle persone che prima di tutto dicono ma io non ho mai studiato, no, queste cose, no? Che cosa potrei dire in proposito? Ed è su questo, naturalmente, su questo potenziale che io penso che bisognerebbe puntare. Cioè non è tanto, per esempio, andare a vedere come professionalizzare alcune figure, ma vedere quante conoscenze, diciamo, non strutturate, non riconoscibili, stanno nell'agire quotidiano, per esempio, di soggetti che agiscono nel campo della salute mentale, essendo considerati, potremmo dire, dei profani, no, tra virgolette. Cioè non è affatto vero che i genitori di un paziente non sanno come fare, magari se ne sono occupati per anni, e perché nel momento in cui se ne discute lì dicono ma aiutatemi a capire come fare? In realtà probabilmente molto di quello che loro hanno messo in atto non è riconoscibile o riconosciuto da loro in quel momento, e la cosa più problematica è che spesso non viene riconosciuto dai loro interlocutori. Quindi quello che io penso che sia importante da fare per me, in generale in questo tipo di confronto, è proprio portare alla luce queste modalità di scambio che abitano le interazioni di ogni giorno e che se avessero un riconoscimento nella pratica quotidiana della rete, della salute mentale, effettivamente farebbero quella trasformazione costante di cui parla Basaglia. Direi che volevo farvi un altro esempio che ricorre, cioè che molto spesso tutti questi elementi, dicevo, sono conoscenze, pratiche, attenzioni, forme di relazione, no? E poi ci sono anche però quegli elementi che oggi collocheremo in uno spazio del controllo del corpo, no? E del versante biomedico, che anche questi interagiscono e con questi dobbiamo in un certo senso fare i conti. Ad esempio, una situazione in cui mi sono trovato al CAD, provo sempre a fare una sorta di breve resoconto etnografico. Quale situazione si può creare ibrida, no? Riguarda l'abitudine di Stefano, un altro, diciamo, paziente che conosco da anni. Al CAD la situazione diciamo, si crea in cucina durante la pausa di lavoro, attorno al tavolo, sul quale sono stati preparati e sistemati a dovere i dolci cucinati da Marta, una ragazza che partecipa al gruppo. Il loro aspetto invitante riscuote un notevole successo. L'unico a non poter mangiare è Stefano, determinato a seguire la sua dieta ferrea. Stefano effettivamente è uno continuamente fuori, diciamo, peso forma. Questo lo riconosce ed è oggetto delle discussioni con le persone che poi si prendono cura di lui per certi versi, sia a casa che al servizio. Si informa da Giovanni, che è l'operatore sociale, della quantità di succhi di frutta che potrebbe bere, grosso modo, in una settimana. Gli piace prendere il caffè d'orzo, ma sono le aggiunte che rendono la bevanda una bomba calorica. Giovanni gli ricorda che non dovrebbe metterci il latte e poi intingervi le fette biscottate spalmate di burro. Alla fine del laboratorio decidiamo con Stefano di andare a prenderci qualcosa da bere al bar. Stefano propone un chinotto. Negli ultimi tempi il chinotto è una bevanda che è circondata da una strana aura di trasgressione. Claudia, la psicologa che ci sente parlare del nostro progetto, si gira e ci guarda con un sorriso. Immagino, ma di fatto poi scopro, che devono averne discusso in qualche riunione negli ultimi tempi. Recentemente è stato fatto notare a Stefano che è ormai fuori controllo la quantità di bevande dolci e gassate che beve da quando va in centro, cioè quando andiamo a fare questo giro. Prima di andarcene, Claudia ricorda a Stefano che per lui le bevande hanno rappresentato un problema medico, come quando al gruppo appartamento si sono preoccupati e hanno consultato uno specialista per controllare la sua lingua coloratasi di un sospetto rosso acceso. Solo con un'anamnesi rigorosa e inquisitoriale alla fine si è scoperta che erano stati troppi bitter e analcolici bevuti a cambiare il colore della lingua. Una volta arrivati al bar, l'uomo dietro al bancone ci dice che il chinotto è finito. Stefano se ne è fatti fuori parecchi questa settimana, questa è la citazione del barista. Ridiamo, non ci resta che attendere il minaccioso annerimento della lingua di Stefano, per correre ai ripari forse, e riprendiamo su un'aranciata. Eppure concordiamo sul fatto che si sta così bene nelle giornate di sole, sedute all'aperto qui al bar a parlare di calcio e di politica bevendo una bibita fresca. Ogni azione è una storia comune, intreccia tutti questi elementi, perché è condivisa e quotidiana, ma c'ha dentro tutti quegli elementi di controllo e di scambio, perché capite che qui il gioco del peso corporeo non è semplicemente un problema di fitness, no? Si lega strettamente alla somministrazione degli psicofarmaci. Cioè, molti pazienti lamentano che la somministrazione di psicofarmaci fa assumere, diciamo, un peso eccessivo. Quindi è lì che si sta giocando la partita, no? È una sorta di lavoro sulla terapia, sul controllo, perché poi effettivamente c'è un monitoraggio anche, no, dei valori, no, attraverso le analisi del sangue, e poi c'è in realtà questa sorta di interazione quotidiana che è la vita di ogni giorno, no? Ora, in realtà, per fare l'etnografia delle pratiche, è chiaro che a noi interessa un po' tutto, ecco perché vi dicevo che molto di questo poi richiede pazienza, ma in larga parte è come qualcosa che, no, attraversa sotterraneamente la vita quotidiana. Quindi bisogna mettere insieme azioni e oggetti. Ci sono i farmaci che non fanno delirare ma fanno ingrassare, c'è la dieta, i medici, le analisi, il pane e burro, il chinotto e tutti insieme i buoni propositi. Dentro a tutto questo poi c'è la trasformazione. E capite che è per questo che ho l'impressione che molte di queste esperienze, no, richiedono dall'altro una forte attenzione per i particolari. Cioè quando si tratta poi di interagire con gli operatori sociali, con i terapeuti, con gli utenti, cioè parlare della vita quotidiana è veramente, potremmo dire, concentrarsi su qualcosa che Franco Basaglia non invitava a fare, no? Cioè qualcosa che ha a che fare con questa sorta di riflettere su una pratica che cambia, su cui noi comunque arriveremo sempre in ritardo, cioè che così ci frega sempre, no? Questo atto innovativo sarà sempre un pochino più avanti della nostra riflessione. E naturalmente tutto questo poi a me interessa perché nel momento in cui emerge nello spazio pubblico poi crea delle contraddizioni molto interessanti. Qui magari riprendo l'ultimo esempio, quando abbiamo seguito ho seguito per esempio una mostra di pittura di un laboratorio, si è creata una situazione credo interessante per me. I pazienti hanno fatto diciamo dei quadri che dovevano essere esposti, si era capito che era qualcosa di importante per tutti. Nel momento in cui si è fatta la mostra, qui non mi soffermo, ma nel luogo più centrale della città, ci si è accorti anche che a quel punto la mostra riguardava dei pittori, ma ovviamente erano pittori che erano anche pazienti utenti della salute mentale. Lì si è innescato un dibattito, un confronto estremamente interessante sul fatto, a un certo punto, come tutelare, no? Per così dire, l'identità, no? Dei pazienti, così come richiede per esempio la relazione terapeutica, no? Tutti questi tipi di rapporti, no? Così intimi richiedono una sorta di tutela e contemporaneamente promuovere una certa capacità di agire che si esprimeva attraverso le opere d'arte, le opere realizzate. Lì c'è stata una situazione compromesso che io provo a ricostruire, cioè da un lato è stato fatto ad esempio un laboratorio interno sulla dinamica terapeutica in cui praticamente i pazienti erano anonimi, poi è stata fatta la mostra in cui necessariamente i pazienti non erano pazienti, anche se la mostra era realizzata dal centro di salute mentale, ma erano sostanzialmente i pittori, no? Gli autori delle opere. Ma la cosa che mi interessa qui sottolineare è che questo tipo di contraddizioni, qualunque soluzione si prende, no? Non è di per sé risolvibile facilmente. È qualcosa che fa emergere tutti quegli elementi complessi, no? Che vediamo interagire, compreso il controllo di quanto burro e marmellata mangia, no? Pane e burro mangia Stefano, nel momento in cui escono nello spazio pubblico. E questo credo che sia uno degli elementi più interessanti, perché si capisce che a questo punto tutte le volte che si fa qualcosa di trasformativo nella salute mentale, che esce nello spazio pubblico, anche i rapporti di potere, anche quegli elementi che abbiamo visto erano, per così dire, incastrati dentro i processi di istituzionalizzazione, l'idea che, per esempio, l'identità del paziente, no, corrisponda a una diagnosi, bene, tutti questi elementi, per così dire, entrano in una sorta di stato di fibrillazione, no, di crisi. Come se ne esce? Probabilmente costruendo dei processi, diciamo, collettivi che aggreghino sempre più soggetti, no? E che in un certo senso rimettano sempre più in discussione questo dentro e fuori, no? In effetti uno ci pensa, no? Se uno ci pensa, dice, questo è accaduto perché è come se immaginassimo che il centro accoglienza di uno fosse uscito fuori. Ma tutto sommato noi potremmo anche pensare che il centro accoglienza di uno è semplicemente una delle molteplici relazioni del fuori con, no, la pratica di ogni giorno. Allora, la consapevolezza di questo, potremmo dire, far saltare continuamente questo confine tra dentro e fuori, no? Ma a questo punto ovviamente coinvolgendo più possibile i soggetti, no, della società civile, da qui per esempio l'interesse della rete a Gubbio delle cosiddette parole ritrovate, lo dico perché magari sono persone che verranno qui, ne parleranno, cioè il fatto che tutta la rete a questo punto si organizza a partire da delle specificità in cui ogni soggetto ha uno specifico. Nelle parole ritrovate c'è, non so, il CAI che fa le escursioni, c'è il gruppo che fa appunto il Cineforum che si occupa di cinema. Ci sono ovviamente la cooperativa Crisalide che invece parte dal centro di salute mentale, ma questo tipo di connessione a questo punto potrebbero far saltare questi confini dentro e fuori, no? Nel momento in cui effettivamente allora si comincia a agire nello spazio pubblico e si rimettono in gioco alcune di queste relazioni. Mi fermo qua perché spero che si discuta, o se no magari alla prossima, insomma.